vissuto partendo un po' dalla mia esperienza. Ci sono stata nel 2005, ci sono lì da 2 anni, quasi più di casa mia. E sono d'accordo sul fatto che adesso il cantiere esiste e oltre a fare informazione, oltre a creare serate come queste, oltre a divulgare la cosa, oltre ad attaccare anche il sistema banche, piuttosto che tutte le ditte che contribuiscono a darvi, bisogna essere anche un po' presenti, nel senso il cantiere è lì e se non lo fermi lì, lui lavora, nel senso che prima lo chiamavamo il cantiere che non c'è, adesso c'è e va. Il buco è un po' iniziato, non è quello dove passare il treno che c'è lì, però c'è. Quindi secondo me è importante che chi è sensibile, no, a questo tipo di devastazioni, magari nell'arco di un anno si prenda anche uno spazio per venire lì e vedere anche cosa succede, dare il proprio contributo. Si spera che anche quest'anno ci sia il campeggio, perché il campeggio è stato quello che a me veniva in mente di chiamare un po' il luogo terzo, che è legato molto all'immaginario dei posti occupati, come per esempio la Palestina, ovvero in Val Susa è successo quello che appunto succede in altre parti del mondo, per cui i valsusini sono partiti da una lotta locale, hanno fatto 1000 collegamenti dalla sanità ad altro, quindi questo è stato un passaggio, e si sono creati dei luoghi, dall'autostrada al campeggio, alle occupazioni, che io chiamo terzi, nel senso che non sono creati da un dominio, da uno Stato, da un governo dove tu devi decidere, fare, agire, ma tu ti crei un altro luogo con tutti i tuoi linguaggi, le tue pratiche, e allora lì funziona e lì dà fastidio, no? E non è un caso che lì si comincia a immaginare una comunità diversa, perché secondo me una lotta senza una comunità, ovvero persone di diverse, con diverse storie, con diverse pratiche, si incontrano e creano relazioni nuove. Allora, questo è quello che è successo alla Libera Repubblica della Maddalena, che non solo saltava il meccanismo democratico, ma lì si stava creando un'altra forma di organizzazione, che non è quella a cui siamo abituati fin da quando nasciamo. Quindi si creava un altro immaginario possibile, che ha portato poi ad andare in autostrada e creare un altro luogo terzo dove agire. E quindi questo è molto importante, secondo me, oltre al fatto di essere lì. Ci tenevo anche un po', questo qua mi veniva in mente perché in Palestina, soprattutto alcune donne che militano in Palestina, hanno fatto una mostra di recente in cui hanno detto basta, noi vogliamo immaginarci, raccontarci, praticare in modo diverso da chi ci occupa, perché in Val Susa come in Palestina ci sono delle truppe di occupazione, lì c'è Israele, lì ci sono i carabinieri, la polizia, l'esercito che occupano un territorio e praticano una violenza, quella violenza che a noi non piace, non quella che ci piace, contro la popolazione, e questo è reale, voglio dire, questo l'ha fatto vedere anche al telegiornale, quindi mi piaceva più l'idea rispetto a quello che dicevi tu, no, della sovversione, non è neanche che mi piace anche abbastanza come termine, se mi definiscono sovversiva mi va anche bene, quello che non mi piace è essere definita terrorista o devastatrice, allora lì no. Perché lì è lo Stato che devasta, quello è un esempio in cui lo Stato italiano sta devastando un territorio con i carri armati sopra la popolazione e quindi sta creando anche del terrore, perché quella è una montagna piena di amianto, se non è terrorismo questo. Quindi quello lì io lo ribalterei contro, invece sovversiva, ma va bene, se devo crearmi una comunità altra che sovverte quella che c'è, che non mi piace, va bene. In tutto questo vorrei anche ricordare che in quest'ultimo anno ci sono tante persone, uomini e donne, che sono comunque processate, sono sotto processo perché hanno partecipato a momenti di lotta in Val Susa. Sono gente della Valle, gente di Torino, Milano, altre parti d'Italia, che sono stati presenti in occasioni come il 3 luglio, il 27, altri momenti. E che adesso loro, insomma, chiaramente quando ci sei in un certo modo e ti metti in gioco in prima persona, ahimè, prima o poi la repressione arriva, quindi anche un invito magari anche a sostenerli, non intendo economicamente, chi vuole anche, ma un sostegno di un altro tipo, quindi politico, e secondo me, non voglio parlare per loro, ma immagino che a molti forse il sostegno maggiore che gli si può dare è essere da sola. Che ne so, bloccare un'autostrada piuttosto che attirare giù le reti del cantiere.